mi atterrò scrupolosamente allo schema che ci è stato inviato, farò del mio meglio per osservare il decalogo formulato dagli interpreti. Una sola parola per esprimere il mio augurio a questo istituto che compie 20 anni e che svolge un'opera così meritoria nel campo dei nostri studi. Siccome dovrò parlare anche nel pomeriggio, mi mando nel pomeriggio una serie di osservazioni che avrei potuto anche anticipare stamattina. La possibilità di questo scambio è dovuta al fatto che il mio istituto ha come compito fondamentale quello della pubblicazione di fonti medievali. Non mi tratterrò per nulla sulla parte storica del mio istituto, il suo passato, il periodo dal 1883, che è quello della sua fondazione, al 1982, che è quello in cui lui ha assunto la presidenza, è stato trattato in maniera esemplare da Alberto Forni in un contributo apparso in quel volume Speculum Mundi, in cui sono raccolte le storie di tutti gli istituti di Roma, sia quelli italiani che quelli stranieri. Volevo soltanto fare due osservazioni. L'istituto storico italiano, che si chiamava così fino al 1934, quando è stato creato l'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, e quindi l'antico Istituto Storico Italiano è diventato Storico Italiano del Medioevo. Questo istituto del 83 è stato creato con una duplice motivazione. Da una parte è stata una risposta polemica dello Stato italiano alla sepe numero considerantes di Leone XIII, con cui, aprendosi agli studiosi una parte della Biblioteca Vaticana concepita come sala di consultazione per l'archivio, Papa Leone XIII formulava anche un programma di studi storici da compiersi in quell'ambito, che dovevano avere come punto fondamentale la rivalutazione del potere temporale dei papi. Di fronte a una provocazione così evidente, lo Stato italiano ha risposto con questa creazione di un istituto storico italiano. L'altra esigenza che invece era maturata in precedenza era quella che questo nuovo istituto coordinasse l'attività delle fondazioni di storia patria e delle società storiche locali. Devo dire che questo secondo compito non è stato per niente attuato dall'istituto. Queste società, queste fondazioni vivono, hanno alcune buona salute, altre meno buona salute, ma comunque operano del tutto indipendentemente, hanno sempre operato del tutto indipendentemente da quello che era l'Istituto Storico Italiano. Questo istituto è stato fondato con la legge decreto, e si capisce perché, ha quindi un carattere di ente pubblico, ha una struttura di carattere autoritario, perché tutte le nomine, sia il Presidente che in quanto membri del Consiglio Direttivo, sono nomine dall'alto. Di fatto questo carattere autoritario dell'istituto è stato corretto da una prassi costantemente seguita di cooptazione. Però io sono molto preoccupato della permanenza di questo statuto, perché mentre fino adesso la computazione di fatto ha funzionato, ma non è detto che così sia in futuro, e quindi penso che sia utile e necessario che ci diamo uno statuto nuovo che io vorrei pensare fosse fatto sulla falsa riga dello statuto dei monumenti e del Magna Storica. Mi sembra una soluzione possibile, anche se più che la rappresentanza di determinate istituzioni, come nel caso dei monumenti del Magna Storica, io penserei di fondare il sistema della cooptazione sulla limitarlo con la necessaria presenza nel consiglio direttivo dell'istituto, che verrebbe allargato a 10 persone, di alcune competenze che secondo me non possono non essere presenti nella gestione di un istituto che si dichiara storico, ma naturalmente non può fare a meno della presenza di esperti in quelle discipline una volta ausiliarie che oggi hanno attivato una loro assoluta autonomia e quindi delle quali non si può assolutamente fare a meno. Non sono più tempi in cui gli storici generali, diciamo così, possono pensare di attendere a pubblicazioni di fondi. L'istituto come personale scientifico, a parte il personale amministrativo che comprende 7 unità, ha 5 membri che vengono nominati con una procedura che si è rivelata col passare del tempo molto ben studiata, cioè si tratta di professori di scuola secondaria oppure archivisti di Stato oppure bibliotecari che vincono un concorso che gli consente di trascorrere 3 e poi altri 3 anni presso di noi senza altri compiti se non quelli della ricerca. Quindi è un personale che non è a carico finanziariamente dell'istituto, ma che attiene questo diritto, diciamo, di lavorare presso di noi per aver vinto un concorso. E adesso il personale scientifico dell'istituto si è molto allargato dal 53 in poi, perché presso di noi ha sede sia la redazione centrale del repertorio di suoni sulle storie medievali che la redazione italiana del repertorio, dello stesso repertorio. Qui c'è un problema molto delicato, perché un lavoro di questo genere, per chi lo conosca, richiede una manodopera estremamente qualificata e d'altra parte non è un lavoro che dia a chi lo pratica delle soddisfazioni nel senso di avere dei titoli a stampa che possono servire per la carriera universitaria. È un lavoro servile di alto livello, lo definirei così, e quindi c'è un problema di finanziamento adeguato e che possa e di potersi valere della collaborazione di persone che attendono già altri compiti dell'università, e quindi abbiamo dovuto studiare una forma di compenso compatibile con queste incompatibilità. La biblioteca del nostro istituto è aperta 8-20 giornate ogni settimana e i 2 compiti a cui attende questo personale amministrativo sono quello di tenere aperta la biblioteca e l'altro della vendita delle nostre pubblicazioni, vendita che noi curiamo direttamente non servendosi di librerie commissionarie. Le collane dell'istituto sono una collana di fondi per la storia d'Italia, ma di questo parlerò nel pomeriggio, di Regesta Cattaro Italia è una collana di fondi documentarie, del repertorio che vi ho già detto, in cui però l'istituto ha come coeditore l'Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte di Roma, e poi una serie di monografie, chiamata Studi Storici. storici, è stata voluta dal mio predecessore Raffaello Morgan, che all'inizio era limitata quasi esclusivamente ai membri della scuola nazionale ammessa all'istituto, e che oggi noi siamo andati ad allargare invece a rapporti esterni, perché sempre più si presenta il problema di assicurare la stampa e la diffusione, che è una cosa molto difficile, a opere scientifiche che non possono andare presso i lettori commerciali. È una delle esigenze di cui l'amico Prodi, alla quale l'amico Prodi è stato sempre molto sensibile. Noi non abbiamo niente di simile all'universo di presso dei paesi anglosassoni, e questo è un aspetto che in piccolo noi cerchiamo di soddisfare. Tra i progetti dell'istituto, e ho quasi finito, c'è un repertorio delle fonti documentarie italiane a stampa, quindi delle fonti documentarie italiane edite, a cura dell'Associazione dei Paleografi e Diplomatisti e del mio stesso istituto. Per quello che riguarda le collaborazioni esterne, i nostri interlocutori privilegiati sono gli altri istituti storici di Roma. Qui ci sono presenti gli amici Terz e Esch, che possono dire quanto siano stretti i rapporti che noi abbiamo tra di noi, rapporti che non sono soltanto rapporti tra direttori, questo va detto e sottolineato. A Roma c'è un'istituzione molto cara anche al professor Enzo, perché a me, che è il circolo medievistico romano, per cui i borsisti, i membri delle varie scuole straniere e italiane si possono incontrare e scambiare tra di loro informazioni preziose sui lavori a cui attendono. Un'integrazione tra questi istituti è anche prevista per quello che riguarda le biblioteche con il progetto URBS di informatizzazione. Ecco, per quello che riguarda, ed è l'ultima parola che dirò, i problemi connessi a una integrazione più vasta, io credo che quello che ci attende nel futuro, quello che riguarda l'istituto, perlomeno che riguarda il titolo personale, sarà proprio in vista dell'integrazione europea di resistere a tutte le spinte invece di disgregazione interna ci saranno anche nel campo degli studi. E quindi penso che il modo migliore di servire la causa dell'integrazione europea sia quello poi di assicurare invece la permanenza delle tradizioni storiche degli stati nazionali, che rischiano, secondo me, nel nuovo clima, di andare completamente disfatte con un gravissimo pregiudizio anche degli studi. Grazie. Thank you.